con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, che insieme a Feltrinelli Real Cinema lo distribuisce, presenta il docufilm Chi scriverà la nostra storia di Roberta Grossman, in uscita in sala domenica 27 gennaio 2019. Anastasia, ben trovata. Ciao, salve a tutti. Certo, Lo presenti? molto piacere, perché sono molto orgogliosa di questa nostra acquisizione, di questa distribuzione, perché il film è davvero un documento importante che racconta una storia stranamente passata un po' inosservata, nonostante appunto la sua importanza, una storia di resistenza, di combattenti che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel ghetto di Varsavia hanno deciso di riunirsi clandestinamente con un nome in codice, La Gioia del Sabato, e di combattere in qualche modo la propaganda nazista dell'epoca con la parola. Il gruppo era composto da capi della comunità ebraica, ricercatori, giornalisti. Diciamo, l'ideatore di tutto questo progetto è uno storico che si chiama Ringelblum. Cosa decidono quindi di fare, rivedendosi clandestinamente? Decidono di scrivere, di raccontare veramente la storia dal loro punto di vista. E vengono tutti incaricati quindi di raccogliere lettere, scrivere canzoni, diari, per riuscire a tramandare al prossimo la memoria di quel che stava veramente accadendo, per dare voce anche alla comunità, a quelli che stavano proprio vivendo quei momenti terribili durante la guerra. Quando le cose pian piano sono andate sempre più complicandosi, quando no, i primi membri dell'ONG Chavez, non so bene come si pronunci in Yiddish, comunque La Gioia del Sabato, vengono deportati, decidono di nascondere tutto questo patrimonio di carta, 60.000 pagine di documenti preziosi dentro contenitori del latte, di latta, per l'appunto, poi delle scatole, e di seppellire tutto sotto, sotto terra, sperando che un giorno sarebbero stati portati alla luce. Varsavia, come sappiamo, è stata bombardata e per fortuna uno solo diciamo, di questi partecipanti a questo gruppo sapeva, sopravvissuto, sapeva dove fossero sepolti questi documenti e sono riusciti, grazie al suo aiuto, a rintracciare e a riscovare gran parte di questo preziosissimo archivio. Dico gran parte perché in realtà c'è ancora una parte dell'archivio che è rimasta sepolta da qualche parte a Varsavia e che non è mai stato ritrovato. Però, diciamo, 60.000 pagine ci sono state portate alla luce e sono oggi considerate uno dei veramente dei documenti più importanti che raccontano l'Olocausto, tanto che sono diventati anche patrimonio dell'UNESCO. Quindi è una storia incredibile, sicuramente pochi sanno. E questo racconta il film attraverso interviste, archivi spesso inediti o comunque pochissimo visti, attraverso anche ricostruzioni vere e proprie, un film di grande impegno produttivo, che è stato girato in tanti anni, e lo spettatore veramente viene trasportato dentro al ghetto e vive quei momenti e ascolta le parole in off di queste, risente le lettere, ascolta le testimonianze, i diari, degli stralci, che nell'originale sono peraltro letti dall'Oscar Adrien Brody, che ha questa fama molto coinvolgente, emotivamente molto, molto forte, e credo davvero che debba essere visto soprattutto dalle nuove generazioni che abbiamo scoperto, insomma, avere poca memoria e che comunque sanno purtroppo troppo poco di quel che è successo in fondo poco tempo fa, e che, come sappiamo, è importante ricordare anche per evitare che cose terrificanti e terribili come queste vengano ripetute senza che neanche ce ne rendiamo conto, insomma. Quindi viene definito docufilm in quanto anche parti di finzione, di ricostruzione. molte, molte, molte parti di ricostruzione, molte parti sono state recitate con un cast vero e proprio, sono stato un cast vero e proprio. Ringelblum, i protagonisti principali sono interpretati dagli attori. Sì, anche per rendere la cosa più scorrevole, più accessibile a un pubblico più ampio possibile, ecco. Cosa ti ha convinto maggiormente di questo lavoro? Guarda, la storia che io non conoscevo mi ha colpito tantissimo e ho pensato che fosse proprio necessario per portarla alla luce, farla scoprire. La storia sicuramente, la storia sicuramente. E poi anche comunque l'eccellenza insomma, dal punto di vista diciamo, del manufatto produttivo è un lavoro molto importante, cioè la produzione è firmata Nancy Spielberg, per capirci, comunque è la sorella di Spielberg e insomma c'è stato un impegno produttivo notevole di ricerca, la regista insomma non è una che si è improvvisata, è una di origini ebraiche che vive negli Stati Uniti, ma che ha studiato per anni l'argomento e lei stessa quando ha scoperto questa storia non poteva credere che non fosse ancora stata raccontata e quindi è stata, cioè senti anche la passione, la motivazione, si sente la necessità. E anche proprio da parte di chi ha lavorato al film insomma, di rendere questo documento più pubblico possibile. È già uscito in altri paesi? Guarda, usciremo tutti lo stesso giorno, anche questo è molto bello, cioè il 27, il giorno Della memoria. della memoria, ci sarà un evento internazionale, quindi siamo tutti insieme, ci sentiamo via mail costantemente perché in 15 paesi, insomma, lingue diverse, lo stesso giorno proietteranno il film in una cosa tipo. Oggi saremmo 350 schermi, di cui devo dire la parte italiana sta facendo un ottimo lavoro, ci stanno facendo tutti i complimenti, qui su 350, 100 schermi sono soltanto da noi in Italia. Allora, la coproduttrice polacca, ad esempio, ci ha chiamato, è molto entusiasta di questo lavoro. Anche noi, devo dire, felici anche della risposta delle esercenti e delle sale che hanno capito un po' il senso del progetto e hanno tutti detto sì con entusiasmo quando abbiamo proposto loro questa storia e infatti come dicevo dobbiamo quasi tutto, se non tutto oggi il circuito delle sale UCI che me lo proiettano il 27 mattina e il 28 sera e tante sale di qualità che sono quelle che seguono molto spesso e volentieri i progetti di Wanted e insieme abbiamo messo insomma, un bel gruppo di sale. Che abbiamo anche creato alcuni eventi speciali in alcune città chiave perché a sostenere il progetto abbiamo la comunità ebraica, l'Istituto Polacco di Roma, che senza il loro aiuto probabilmente non saremmo riusciti a mettere in piedi una macchina così grossa e così complessa, ma ci stanno aiutando a promuovere il film, a fare arrivare la comunicazione a tutte le persone che pensiamo e speriamo possano essere interessate e anche a organizzare proiezioni nelle scuole, che credo sia magari da approfondire anche in seconda battuta dopo l'uscita del 27 e 28, credo che sia un film che deve veramente girare a lungo nel circuito scolastico, perché è proprio importante che così accada. Un'altra cosa che aggiungo è che il giorno, la domenica, alcune sale, tra cui a Roma il Farnese, si connettono via Facebook in diretta alla sede UNESCO di Parigi, dove alle 17:30 ci sarà un incontro importante con la Roberta Grossman, la regista, e Nancy Spielberg, che presenteranno al pubblico il film. Quindi diciamo in più al Farnese c'è anche questo momento di presentazione live in diretta da Parigi e il film quindi inizierà, sarà fatta alle 17:30, la presentazione alle 18, 18 la proiezione. E allora ricordiamo il docufilm Chi scriverà la nostra storia di Roberta Grossman, in uscita in sala domenica 27 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema che insieme a Feltrinelli Real Cinema lo distribuisce. Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti voi, grazie, a presto.